Oh, si è aperto per cazzo il sazzo. Ancora meglio, figurati tu. Oh, anche una sera verso le 2:30 ho copiato due camionisti che erano lì a Santa Teresa e mi arrivavano benissimo e mi hanno anche sentito bene. Ti ho detto che è un punto micidiale, ti ho detto. È un punto micidiale, io mi sono associato quando ho sentito certa modulazione. Cioè, in chi mi si pone il baracchino guai. È in basso ma è micidiale. Lì si mette il radio guai, c'è un bel forte. Sì, se lì si piazza un 140 dovrebbe uscire come un treno. E conta che c'è la lingua. No. Figurati. Aspetta che attacco 140 per così. Lo sento meglio, perché c'è meno quel REM è quello. Questo c'era, è vecchio come baracchino, già lo sai. E prendiamo un bel di quel REM. Ciao. È un punto micidiale quello, è un punto micidiale, è brutto. In chi si vede più in là, se si buca a cazzo un baracchino di mezzi, come disonori, arriva a passare a bomba. Quando questi erano in camion, camionissimi, era un toscano e un genovese, stavano viaggiando in camion e si stavano scambiando i litri di gasolio e gli ho chiesto un controllo ed arrivavo benissimo, anche loro. Era strano, ho detto, ma non è che mi stanno prendendo in giro, invece no, stavano viaggiando in camion, erano lì a Santa Teresa. Non so. È micidiale quel punto, secondo me è perché sei in basso ma è molto apertura, è molto aperto quel punto lì. Cazzo abbiamo capito che mi sono associato, perché io mi inabizzo con le ricezioni, le cose, le conosco bene. Si muove il radio, Givi. C'era di nuovo quel non so che cos'è, polacco e vabbè, con la lingua straniera là. E di nuovo a voce di Friasco. Chiedi di nuovo quello in inglese, ora stavo ridendo. Sono passerelli, sono qui. Non so come facciano arrivare in questa gente, non lo so. Senti, mi arriva quel che avuto. Figurati. Adesso dovrebbe ascoltarmi molto meglio anche lui. È tutta un'altra storia questa radio qua. Non è come la monogattolo, questo è totalmente diverso. Uno di questi ci vuole. Adesso è molto, ma molto, molto più chiaro. Ma cambia il segnale adesso, eh? Sì, sta. È un'altra cosa. È sempre qua, con me. Questo è 140, figurati. Con 40 watt d'uscita. È tutta un'altra storia, è come aver agganciato il telefono qua. Antonio già lo sa, qua da casa, nel punto dove sono io parlo tranquillamente con l'Europa, figurati. L'Ucraina me la faccio tutta, compreso anche Mosca, sento. Dalla parte, diciamo, da quella parte sono aperto perché c'ho in pratica la zona di Seno, hai capito? C'ho quel confine che è entro tranquillo e quindi riesco a ascoltare quella parte lì, penso che l'ascolterai anche tu se alzano. Ecco, dall'altra parte sono tappato e sono aperto un pezzo come si chiama, la montagna che c'è vicino a Mores, Monte Santo, capito? Vabbè, l'antenna è messa da voi, è sposto l'antenna di 2 metri, basta che mi sposto di 2 metri e il centro Sardegna lo piglio in pieno. Tu da quella parte dovresti uscire, sentire molto più verso il sud, dai, sud Sardegna, nel centro regione lì, dovresti andare bene. Infatti dove c'è le palazzine, ha capito, mi hanno costruito di fronte a casa, che sono più alti di 3 piani, hai capito? Perché sono scendendo, lo sentivo tanti anni fa, 9.10, 9.20, adesso 7, 8 di segnale, capito? Mi si è abbassato parecchio. Tornare come prima devo metterci un palo minimo da 6-8 metri, ma non voglio essere spaventato con questi cicloni che arrivano uno alla settimana, ce la faccio a andare di notte a metterci tiranti, lo saranno. Infatti l'antenna è bassa, ce l'ho 2 metri dal tetto. Oh, poi con questo vento che sta andando, mamma mia bella, voglio. Io lo stavo sconsolando per la mia, ma ho visto che invece non l'ha manco colpita. Io c'ho solo un tirante, vabbè, qua il vento è solo da una parte, quindi non è che mi sbatterà molto la bandiera, non fa molta bandiera. Poi è dalla sinistra un'antenna molto leggera, per taglia molto il vento. E lui porta che arrivi poi il resto, quello di una fuzzina, va bene. Anche Antonio quando arrivava lì, che lui abita prima di arrivare a Sorso, arrivava sul segnale tuo, con la antenna che mi ha dato, questa qua, soltanto l'antenna che in pratica usava lui, che era sua. Sono la cicottava la energy, è leggera, però già funziona bene, grazie a Dio, anche a tu. È uguale alla mia, come quella che ho io, è bella antenna, insomma, robusta pure, e pure la bella ti la fa mandare, la tua, io vabbè per il palo vado a stare, ma sono tutte di nulla. E pure la tua già ha ballato, non l'ha fatto nulla, non l'ha fatto. Sono veramente soddisfatti della prestazione. E a me già ha ballato parecchio. Se aveva avuto la matta, ma ha preso della Energy 50, me l'avete trovata a terra, questo è poco ma sicuro, perché un vento così forte, capito? È molto pericoloso, gli hai visto gli abiti che ha buttato a Sassari, quindi figurati tu se avevi l'antenna vecchia, l'avevi trovato palo e cose, tutto in terra l'avevi trovato come minimo. Però guarda, ci ho messo i tiranti, ci ho messo e un po' mi sono salvato il culo. Avevo più di 20 anni con l'antenna. Adesso faccio questa e terrò questa, poi in seguito vedrò di comprarmi un'antenna più performante e che resiste al vento. Ho visto una poco fa, ne ho visto, sul telefonino, è uguale alla Energy, c'ha un altro nome, è nera, tutta nera, sotto, addirittura c'ha la stessa gaffa della Energy 5 ottavi, se voglio li posso mettere anche la diare, siccome la senza la diare, ce n'è una mezz'onda, e mi sembra l'altra c'è la diare di 5 ottavi, è precisa identica alla Energy, però c'ha l'altro nome, che qui è della Matessigosa, come quella che abbiamo noi, GPS. Falcon mi sembra che si chiama, se non sbaglio. Falcon, c'è la bandiera italiana, è tutta nera, capito? Dove ho fatto la bobina che abbiamo noi, fai da lì fino arrivare all'inizio della gaffa curva che c'è, che poi patelene, cioè lo si vede l'alluminio, tutta nera, fa come sembra che si chiama, dove sta poco fa l'ho visto. Sì, Antonio, sono lì Matessantenni, so, alla fin fine, è la stessa cosa. E chi sa di cosa, ma non l'ha mai ricostruito, non l'ha fatto Luba, non l'ha fatto, quella di Marco. No, soddisfatti veramente. Come prestazioni ne ha, perché posso dire, non posso dire niente, mi sono divertito quest'estate. A me ho usato via di seduto durante la vita. Ti posso dire che mi rendeva molto bene, parlavo tranquillamente con la Spagna tutti i giorni, tutto il centro Sardegna, parlavo tranquillamente con Nuoro, con Villacidio. Sta chiamando. Chi è? Spagni, ma non te l'ha detto Antonio come mi ha fatto salire sul tetto a piazzare l'antenna? Il giorno che ha fatto voi il vento, io sopra il tetto. Sono rimasto attaccato al palo dell'antenna che ci faccio con la bandiera, ma fatto quello lì. Ci sono antenne che sono belle. Anche magari. Hai algo che casina riete questo? Aspetta, vediamo un po' se riesco a trovarla. Quell'antenna. Questo viene utile. È roba cinese, roba vostra. Aspetta che controllo, vabbè. Antonio, dimmi tutto. Ti verrà condannato a me, il giorno che c'era il vento che stai aspettando l'antenna, e poi poco non ci volo io, insieme all'antenna. Ah, no. E comunque il bastone ha funzionato. Quella era la prima. Il bastone della scopa, caspita, le prime va bene lo stesso, cazzo, va bene lo stesso. Beh dai, oh Anto, dai che sono dalle 3 io sveglio. Adesso mi faccio una pannichella, anche rocco. Dai, saluto Antonello, ciao Antonio. Alle prossimine, dai, buonanotte. Ciao, ci sentiamo. Chi sa abbigliando tutto, tutto, ma già si busca la cosa più performante. Ok, ciao, ci sentiamo. Se hai cabina da... C'è un buco, non so, allucinante, cazzo. C'è staccato un appartamento che a due palazzine ci stanno legge. Ha salutato Giovanni, se ne è andato a riposare. Ok. Ciao Giovanni, ci sentiamo, stai bene. Alle prossime. Ha già chiuso. Un quattro radiali la preferisco perché è molto silenziosa come antenna. Soddisfano questa qui, cioè con cosa che vedo prima con la Mantova, il QRM ce l'avevo rotto, specialmente con 80, era una cosa allucinante, non riuscivo a... mi vedevo nervoso quando lo accendevo, sempre 8, 7 di QRM, per poter parlare con Budulio dovevo mettermi in FM e riuscivo a ascoltarlo, figurati. Si può dare parecchio, capito? Vediamo un sacco di QRM, ragazzi, è una cosa allucinante. Facciamo via di sindrome, scariche elettriche, anche uno scarico elettrico che abbiamo qua. Quando facciamo la temporale sentivo il fruscio del cavo della 15.000, faceva tutti venivano, ero nervoso, l'unico punto dove non sentivo l'accidente, se sentivo tutti chiari, era il centro storico, lì via il corso Vittorio Emanuele. Poi chissà Mantova Turbo, te la raccomando. Tra i radiali, avere molti radiali non è un vantaggio. Cioè, secondo se c'è ripetizione vicino a cosa. Oia! Corimeo! Lascia perdere, infatti se io l'avrei trovata nuova avrei messo la mantova 1. Se non va bene questa, perché ha tre radiali e non piglia il gasino. Vabbè, ma trovato tu, adesso me l'accordo, vale, capito? Stato è già pieno, sapete, io ho visto, ci sono mantova 1, mantova 5, ancora libere, eccetera. Ma ci sono anche altri tipi di antenne, ormai stanno costruendo nuove, capito? Quindi non sono abbastanza per arrivare da fuori, basta andare nel mercato americano e comprarne una. Si paga la dollara e mi pare che venda, capito? Sì, ma comprarla come molti pensano, comprarla contro i radiali va bene in campagna quella, in posti dove non ci sono ripetitori e cosa, ma dentro la città comprandola con tanti radiali, ma manco no. Dove abito io tuttora, già lì c'era 15.000, quindi poi meno male mi hanno tolto i ripetitori telefonici, e era ora, evidentemente uno ha avuto qualche denuncia o qualcosa del genere, gli hanno fatti togliere l'ortello che c'avevo di fronte. Prima l'ho cominciato con un'antenna, dopo una ne hanno messe due, una fianco all'altra, dopodiché hanno preso, hanno messo il 5G, dopo che hanno settato il 5G, quanto è durata? 3 mesi, 4 mesi, non di più. Io mettevo il tesser davanti alla finestra, solo i puntali del tesser, e mi segnavano 15 volte, mi segnavano. Senza essere a contatto di nessun posto, su per prendervi i puntali del tesser e pigliarvi dalla plastica. E mi segnava, attenzione, mi segnava 15 volte sotto i tonni, mi segnava in parte che cazzo, perché facciamo la luce, cioè la tensione è dentro la camera qua, capito? E capo, cosa c'è, Gabriele? Aia, mi hai fatto male! Gabriele, fuori cattivo! Ma tutto un cazzotto! Sì, comunque sia, ma sono sempre stato il contrario io. Mi lo sa chi è bella, cavolo? La cipolla è bella. Ah, quello sì. Sì, lo so anch'io. Io non sei più già, c'è poca roba, meno male. Ma là c'era distante, diciamo, i problemi c'era di più torre più che altro, perché c'era tutte quelle auto che arrivano per andare a Santa Maria di Pisa, c'è proprio di fronte a lui di sbarca, capito? Ma dove sei tu, passano poche macchine, almeno quello. Passano nella Budi, capito? Capo, io ti devo lasciare perché dice un diavolo, mamma mia. Appena ci risentiamo alle prossime, ok? Mi ha fatto piacere, Gabriele, perché devo mettere il pigiama, devo vestirlo. Ce la risentiamo. Ok, va bene, ci sentiamo alle prossime. Buona cena, buonanotte e buon tutto. A domani. Ciao.